la chiamo Gloria. Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore. Di cartone pensando a Gloria.